известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Stand by water. Okay, you're on. Weather good. Astronauts good shape. Tracking system. I think that our conquest of space is one of the great stories of the 20th century. Guardate che noi lo sappiamo, l'abbiamo capito, che voi l'avete capito, che sono passati 40 anni dallo sbarco lunare e non è che ve lo volevamo ricordare un'ultima volta, così tanto per recuperare gli smemorati, è che volevamo invece cogliere l'occasione e questa meravigliosa voce, questi meravigliosi suoni che vengono dal passato, per la fattispecie vengono da esattamente 40 anni fa naturalmente, per ricordare un personaggio che è invece passato a miglior vita proprio in coincidenza con una delle sue telecronache più famose. Si chiamava Walter Cronkite, 92 anni al momento della morte nella sua casa di Manhattan, e semplicemente il più celebre, amato e rispettato giornalista televisivo americano, in diretta per circa 20 anni tutte le sere con La Nazione. Dal 62 all'81 ha coperto eventi come l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy e per l'appunto lo sbarco sulla Luna, e poi tutta la storia americana di quegli anni anche molto difficili, compresi i suoi famosi reportage quando si metteva la sariana e partiva per il Vietnam e raccontava il Vietnam, e lo raccontava in termini assai scettici, come una palude, questa era la parola che lui aveva usato e che era poi entrata nell'uso appunto comune degli americani. E una interessante riflessione a margine di questo piccolissimo ricordo di Cronkite è proprio quella della attendibilità che veniva riservata in anni come quelli in cui la tecnologia era agli albori e la comunicazione aveva una semplicità e forse anche delle esigenze e certamente dei tempi diversi, l'attendibilità che circondava un personaggio di questo genere. Davvero Cronkite aveva al tempo stesso una grandissima responsabilità e una grandissima possibilità nelle proprie mani, nella propria voce, nelle idee e nelle frasi, nei pensieri, peraltro sempre molto semplici, in puro stile anglosassone, niente di arzigogolato, niente con troppe incidentali, con i quali comunicava con il paese. Semplicemente si accendeva la televisione a una certa ora e Cronkite diceva agli americani, soprattutto alla middle class, che in lui moltissimo, anche nella sua fisicità, nel suo stile, nella sua educazione, nella sua calma, moltissimo si identificava. Cronkite diceva agli americani come stavano andando le cose ed era in questo creduto creduto e rispettato in un modo che poi sarebbe purtroppo tramontato. Quindi insieme alla rievocazione di un grande spicchio di quello che resta comunque indubbiamente il XX secolo e i suoi sogni, nella fattispecie lo sbarco sulla Luna, che oggi compie 40 anni, passa a miglior vita. L'uomo che lo descrisse con sobrietà, chiarezza ed efficacia, ma che anche fece del giornalismo americano qualcosa di speciale. Restiamo in apertura alla puntata di oggi di Jefferson, la settimana di Jefferson, a parlare di voli magari molto meno eclatanti che la Luna, ma semplicemente di quei voletti su e giù che si prendono con Londra per andare in famiglia o per mandare i figli in vacanza in Inghilterra, che come sapete bene sono nel frattempo diventati un problema internazionale, perché esiste una ormai conclamata proibizione da parte delle linee aeree di imbarcare chiunque abbia a che fare con la febbre suina, e nel frattempo la preoccupazione si allarga anche perché oltre Manica nel Regno Unito le cose stanno andando assai peggio che da noi. Però poi se si parla con qualche amico inglese si prende anche un po' contatto con questa realtà da un'altra angolazione, e quasi tutti esprimono scetticismo e dicono sì, ma l'influenza ogni anno fa questo e fa quest'altro, sì, ma le cifre ogni anno sono queste e quest'altre, qual è il ruolo dell'industria farmaceutica, qual è il ruolo dei politici e qual è l'uso che si può fare di una notizia di questo genere genere anche a sfondo politico in un momento come questo, per esempio in una nazione piuttosto preoccupata anche politicamente come l'Inghilterra, il Regno Unito di oggi. Abbiamo in diretta, e la ringraziamo per questo, Maria Serena Natale, inviata del Corriere della Sera, è a Londra già da diversi giorni per monitorare la situazione e si sarà sicuramente fatta un'idea di quanto sta accadendo. Buon pomeriggio Maria Serena e grazie. Buon pomeriggio, grazie a voi. Insomma, ecco, giornalisticamente come approccio, come avvicinamento alla notizia, i cui limiti poi, no, credo condividerai, sono così sfumati, non si riesce esattamente a capire di che cosa si sta parlando, ma hai la sensazione, anche alla luce delle prese di posizione così molto, molto pesanti, molto decise, del governo inglese, che sia davvero solo una questione di sanità o anche qualcos'altro? Allora, sicuramente si parte dalla questione sanitaria, ma naturalmente, come dicevi, il problema ormai sta diventando anche politico, nel senso, l'impressione è che adesso si stia passando, anche nella percezione degli inglesi, da un allarme generico, dalla tensione, diciamo, delle ultime settimane, alla presa di coscienza del fatto che siamo di fronte ad un pericolo che è sì serio, concreto, reale, però comunque contrastabile, è un'influenza della quale non si riesce a prevedere lo sviluppo, perché esatto, non si sa come questo virus muterà. Soprattutto quello che spaventa di più è la rapidità del contagio, ed è da questo che le persone cercano il modo di difendersi. Però detto questo, ormai anche le persone si stanno rendendo conto che si tratta di una influenza, appunto, come tante. Il problema è che dal governo pare siano giunti degli input contrastanti, nel senso, negli ultimi giorni ci sono state voci sulla possibilità di rinviare le gravidanze, è stato il caso più eclatante, diciamo, certo, del weekend, e sul sito di una associazione privata erano stati ripresi degli input dati dal governo che invitavano le donne a rinviare la gravidanza, poi il governo ha smentito, insomma, adesso, cioè, si erano poste in una situazione di rischio particolare le donne che cominciavano un'eventuale gravidanza, in sostanza. Oggi hanno chiarito, nel senso che dal Ministero della Sanità è arrivata la retromarcia, semplicemente c'è il pericolo di complicazioni ulteriori, ecco, è chiaro che le donne, certo, sono più esposte al pericolo di, certo, prendere, certo, e contrarre infezioni varie, quindi, certo, compresa l'influenza. Certo. Il punto è che si era creato un allarmismo ingiustificato, e oggi appunto il governo è sotto accusa perché pare che non sia, perché insomma rimproverano ai laburisti di Brown di non essere riusciti a mantenere nervi saldi e soprattutto a indicare una linea di condotta coerente da tenere. Infatti più tardi dovrebbero essere pubblicate le nuove linee guida, insomma i nuovi dettagli. Il Ministero della Sanità darà i nuovi dettagli del piano che dovrà entrare in vigore questa settimana, con una hotline e con un servizio internet che dovrebbero sollevare lo staff del Servizio Sanitario Nazionale dal carico eccessivo di lavoro e di pressione che si è avuto in questi giorni. La cosa sta diventando politica senz'altro, nel senso che poi bisogna anche tener conto della psicologia britannica, no? del proverbiale autocontrollo degli inglesi. Insomma, sembra che il governo non sia riuscito a mantenere nervi saldi e il controllo della situazione, e naturalmente subito l'opposizione conservatrice e liberal democratica si lancia all'attacco. Pensiamo anche che è un momento molto difficile questo per Brown, è sotto tiro su vari fronti, certo, basta, certo, la guerra in Afghanistan. Beh, qui c'è anche un problema che credo non tarderà a diventare oggetto di discussione, che è per esempio sotto l'aspetto degli introiti turistici. È inevitabile che ci sarà un immediato crollo, no, del turismo verso la Gran Bretagna. I genitori si guarderanno bene da adesso in poi a far fare il classico mese di studio, no? Oltremanica ai propri figli. Gli effetti, quindi, anche dal punto di vista finanziario si faranno sentire. Come no, assolutamente. Per esempio c'è il college dove sono stati i ragazzi della, certo, scuola media di Andrea della provincia di Milano, no? Che ha annunciato che, insomma, adesso farà la disinfestazione, non intendono prendere più studenti, almeno a breve. C'è anche il problema delle assicurazioni, delle cancellazioni di viaggi, no? Certo. Tu parlavi prima riguardo agli aeroporti, come si sta evolvendo la situazione? Allora, negli aeroporti diciamo che si vedono più mascherine che nelle strade, certo, nel senso che sono un po' i luoghi dove si registra il picco, no, della tensione, mm-hmm, dei controlli, naturalmente a causa del via vai. I controlli ci sono. Stamattina sia le British Airways che la Virgin Atlantic hanno detto che in realtà loro non hanno fatto altro che rafforzare delle misure fisiologiche che erano già in vigore, insomma, anche al di là dell'emergenza pandemia. Di fatto i controlli si sono intensificati. complicati. Ma sono ancora controlli passivi, cioè deve essere il passeggero in qualche modo a segnalarsi o a dare segni di malessere, o come capita in Cina ti misurano la temperatura e se la temperatura è quella sbagliata ti fanno scendere, come funziona? Le indicazioni sono queste, allora, nel senso difficile che un passeggero si autosegnali, ecco, certo. Non sono stati registrati casi di passeggeri che hanno segnalato di avere virus, insomma, la possibilità di avere il virus prima di partire. Ci sono questi controllori che stanno lì a scrutare le file di persone al check-in e che cercano di capire, insomma, di individuare se ci sono persone con appunto la fronte marida di sudore oppure certo. Insomma, fa anche un po' sorridere, diciamo, la cosa, certo, raccontata certo. Così, no, se ci sono persone che tremano, magari che danno segni di temperatura particolarmente alta. In quel caso, di fronte al dubbio, insomma al sospetto concreto della presenza del virus H1N1, viene allertato il personale medico, che insomma è attivo 24 ore su 24 in aeroporto. Si fa la visita, il controllo di routine, e se il passeggero non ha un certificato medico che attesti la possibilità di partire, insomma, quindi di non aver contratto nelle ultime ore il virus dell'influenza, deve tornare a casa. Ho capito. Del resto, per concludere, Maria Serena, si stanno moltiplicando in Italia, ad esempio, i casi di sospetta influenza H1N1, soprattutto tra i ragazzi. Poi si sa che c'è anche una questione generazionale in questa influenza. Tra i ragazzi che rientrano da vacanze in Inghilterra, è successo a Roma, a Gela, al nord. C'è qualche eco in Inghilterra di questa ormai crescente inquietudine anche all'estero? Sì, diciamo che in Inghilterra si parla prevalentemente degli inglesi che vanno incontro a situazioni difficili all'estero. Per certo. esempio, l'ultimo caso è quello degli studenti che sono stati messi in quarantena certo, in certo. Cina. Ci si rende conto, insomma, dell'allarme negli altri paesi, del fatto che magari il britannico adesso viene guardato con un po' di sospetto, certo. Ma visto che questo sembra un po' l'epicentro della pandemia a livello europeo. I timori comunque si concentrano sempre sul livello nazionale, nel senso che le persone adesso stanno cercando di capire come comportarsi concretamente, cioè portare i figli al parco e farli giocare insieme agli altri bambini, andare a fare il picnic. Pensiamo comunque che sia aperta la stagione estiva, le persone certo. vogliono la temibile metropolitana di Londra, insomma, via di questo passo. La temibile metropolitana di Londra, dalla quale soprattutto appunto le donne incinte sono certo. invitate a stare alla larga nelle ore di punta. Va bene. Diciamo che per adesso è sufficiente prendere un taxi, poi però l'atmosfera, insomma, di timore mi sembra stia crescendo in modo piuttosto accelerato. Io ringrazio Maria Serena Natale, inviata del Corriere della Sera, che ci ha dato questi aggiornamenti. Le notizie si succedono. Dalla Francia, per esempio, arrivano quelle secondo le quali voli e treni annullati, ci sono ospedali sovraffollati, accorti personale, si prevedono alberghi trasformati in ambulatori, questi sono scenari, e fabbriche deserte, molto telelavoro, chi lavora da casa. È uno scenario catastrofico questo, disegnato in caso di pandemia della famosa influenza suina in questione, che secondo gli scienziati francesi potrebbe toccare il 20-50%, un po' come sparare, insomma, 20-50% della popolazione. Comunque anche nella Francia sembra in progressivo acceleramento questa situazione di preoccupazione di un avversario, di un nemico, poi peraltro ancora dai confini molto sfumati. Fazio dice che è impossibile prevedere, anche se per l'Italia sarà necessario applicare limitazioni agli ingressi nel paese attraverso controlli negli aeroporti. E poi ci sono tutte le cronache che si succedono ormai con cadenza quasi oraria di ragazzi che rientrano in Italia, più che altro all'Inghilterra, anche se l'Italia però viene tenuta in un anello più protetto, diciamo, di questa situazione di eventuale pandemia, eppure molti casi vengono monitorati come possibili casi di influenza suina. Il piano pandemico, ha spiegato Fazio, prevede che fino al livello 5 ci sia un contenimento, evitare che l'epidemia entri nel paese. Il livello 6 prevede invece che nei paesi interessati ci siano misure anche in uscita. Vi abbiamo raccontato già da qualche giorno, forse da qualche settimana, quello che accade in Cina. Semplicemente non vi fanno partire senza aver verificato la vostra temperatura e il vostro stato di salute. Forse è stato un provvedimento, come dire, fin troppo troppo prudenziale, ma mi sembra che tutto sommato abbia un approccio piuttosto scientifico e tagli un po' la testa al torno, piuttosto che questi osservatori che scrutano i cittadini in partenza. Continueremo a seguire la situazione. Stanchino delle celebrazioni della Luna. Anche perché vanno avanti da almeno 10 giorni. Un po' stanchino di guardare questi monitor e vedere questi che annuiscono, sì, quando c'ero pure io. Poi sono sempre gli stessi ospiti. Sì, sono sempre gli stessi ospiti, siamo inflazionati di guidoni che è un... l'unico nostro astronauta, o quasi, sì, sembra. Che scrive le lettere, insomma, e i vecchi astronauti. C'è peraltro un bellissimo articolo che vi segnalo su Time, se avete tempo da perdere, che analizza il mal di Luna, gli uomini andati sulla Luna in questi benedetti 40 anni, in tutto sono 11, quindi fanno precisa una squadra di calcio, e gran parte di loro non se la passa troppo bene psicologicamente, che è comprensibile per i soliti motivi un po' grossolani, si vede il mondo dall'altra parte. Poi probabilmente ci sono invece delle storie di vita più interessanti che questo articolo analizza in modo assai preciso. Comunque, come dire, adesso con il remake 40 anni dopo sta per avvenire, scenderà il benedetto modulo. Chissà cosa faranno per i 50 anni, però attenzione. Vabbè, abbiamo tempo per disintossicarci. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Vediamo. Allora, io vado in Cina, ma resto connesso alla questione dominante della nuova influenza. La nostra amica, l'inviata del Corriere della Sera, ci ha ricordato i poveri studenti inglesi che sono confinati in quarantena a Pechino. Il loro numero è piuttosto alto, sono 85. Di fatto ci sono questi bollettini che crescono di mezza giornata in mezza giornata. All'inizio erano 52, adesso sono arrivati a 85. E secondo un freddo lapidario comunicato dell'ambasciata britannica a Pechino, sono in quarantena in un hotel che però non viene segnalato, forse per evitare, che ne so, assalti all'albergo a Pechino. Come hai già precisato, i cinesi sono molto fiscali, molto attenti nelle procedure di controllo, di monitoraggio. Se hai 37 e mezzo vieni fatto scendere dall'aereo e con tutto l'equipaggio vieni accompagnato. Beh, ma mi sembra più civile, devo dire, dell'essere scrutato. No, certo, però devo dire che su questo i cinesi hanno ancora il pregresso dell'aviaria, della SARS, vogliono evitare comunque anche mediatiche che hanno avuto in passato. Si misurano la febbre con affare a distanza, una macchinetta. Un laser molto discreto, il nostro Saro Capozzi lo ha testato sulla sua testa, è il caso di dire, ma è tutto tranquillo, per lui non c'è nulla di strano, come per esempio i cinesi sono abituati a questi controlli, quindi non si scandalizzano. E tutto sommato, per ora, considerando che stiamo parlando di un paese con oltre 1 miliardo di persone, i casi sono piuttosto circoscritti, perché parliamo di 1500 casi di nuova influenza, di cui peraltro nessuno ancora mortale. Se io vado lì, mi cominciano, vedo uno e mi comincia a scrutare, mi guarda, comincio a sudare. Meglio essere monitorato. Comincio a sudare, poi magari comincio a oscillare e è finita. Un altro lutto invece da segnalare, che sicuramente dispiacerà a molti lettori in Italia, quanti si sono goduti e hanno e hanno inneggiato a Le ceneri di Angela, il libro con il quale Frank McCourt ha vinto il premio Pulitzer. È morto a 78 anni a New York, questo autore di origine irlandese, un autore interessante perché connesso poi a un modo di essere romanzieri e scrittori che fa un po' parte del passato, ma di un passato ormai lontanissimo, cioè lui era un insegnante alla fine. È divertente una intervista recente di Frank McCourt in cui lui analizza proprio questa occasione che ha avuto di diventare una star della letteratura mondiale dopo aver a lungo frequentato semplicemente i suoi studenti in una normale classe di New York. Dice: Francis Scott Fitzgerald ha detto che non ci sono secondi atti nelle vite americane. Io penso di aver provato che si sbagliava. E tutto perché ho rifiutato di accomodarmi in una esistenza di un atto unico, i 30 anni in cui ho insegnato inglese in diverse high school di New York. Infatti poi dopo è arrivato il successo, Le ceneri di Angela è stato un successo planetario e la rappresentazione di una Irlanda dolente che porta con sé è diventato ormai un vero e proprio prototipo della letteratura del XX secolo. Un altro po' di notizie dalla Cina. Intanto segnalo che una fonte italiana, che per la cronaca tifa per il Milan, mi fa sapere che anche in Cina è arrivata la notizia del passaggio. Una fonte possibile, italiana, probabile. Cos'è sta roba che hai detto? Finire, no. Se la dico. Allora, un amico che tra l'altro per la cronaca tifa per il Milan, adesso si capisce perché, segnala che anche i giornali cinesi parlano del passaggio di Ibrahimovic dall'Inter al Barcellona, un affare da questo da, di 70 fonte milanista milioni, questa notizia. La prendiamo per buona, non lo so, la lascerei cadere con un plonk. Questo era un dettaglio. Invece c'è la notizia del giorno in Cina, è che il presidente della Sinopec, stiamo parlando della più grande compagnia petrolifera cinese, è stato condannato a morte, poi la condanna è stata sospesa e probabilmente rinegoziata in un ergastolo, diciamo così, comunque sempre pena pesantissima. È stato condannato per corruzione perché aveva incassato circa 20 milioni di euro in tangenti. Ma il bello è che il China Daily si è divertito a immaginare che cosa si potrebbe fare di bello e di buono con 20 milioni di euro in Cina. Per esempio pagare 19.000 tasse universitarie, oppure costruire 66 scuole elementari, perché meglio. Invece vuole divertirsi, può fare 500 volte il giro del mondo con la più lussuosa crociera, oppure comprare, e qui non voglio fare pubblicità, però insomma 68 Audi di alta gamma con 20 milioni di euro, forse un po' poca, insomma. Vabbè, io chiuderei qui, però ti vedo questa storia di Ibrahimovic, diciamo, si sta innervosendo. Sì, in Cina si parla, ti vedo te, dei 70 sì, milioni, sì, ma non vedo del buon umore. Io non sono milanista, quindi vabbè, sono parte in casa. Va bene, tra poco si torna a parlare di argomenti seri, Afghanistan. Il sottotitolo potrebbe essere una specie di ritorno all'incubo. A tra poco. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds sing a sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. I'm scared I won't be able to go home. It is very unnerving to be a prisoner. I have my girlfriend who is hoping to marry. I have my grandma and grandpas. I have a very, very good family that I love back home in America. and I miss them every day that I'm gone. I miss them, and I'm afraid that I might never see them again, and that I'll never be able to tell them that I love them again. I'll never be able to hug them. La bellezza di 28 minuti in realtà il filmato, questi sono solo i primi momenti del filmato rilasciato dai talebani del soldato americano rapito il 30 giugno, di cui oggi, anzi da ieri, si conoscono anche l'identità. Si tratta di Bowie R. Berdahl, viene da Kitchum, un posto perduto nel cuore dell'Idaho. Se c'è un'America profonda questa è il suo status a questo punto, secondo le autorità militari americani è quello di missing captured, che vuol dire disperso, lineetta, catturato, come dire non è più con noi, e purtroppo siamo anche informati del fatto che è in mano nemiche. Nel lungo video che è stato messo in circolazione dai talebani, il ragazzo Bowie dice di essere spaventato, di avere paura soprattutto di non poter mai più tornare a casa, di non poter mai più vedere la sua ragazza, di non poter mai più vedere i suoi parenti. È una piccola storia, naturalmente con la sua tremenda drammaticità, che si accompagna ad altre notizie invece semplicemente fattuali, che parlano di soldati che la vita l'hanno già persa. Ad esempio è morto un altro soldato britannico, c'è stato uno schianto di un elicottero civile in una base aerea NATO a Kandahar, c'è un aereo militare che è caduto. Sono notizie, sono bollettini di guerra che si vanno succedendo e anzi direi infittendo, ma la storia di Berdahl, di questo giovane militare, può rispolverare tutto un immaginario, diciamo così, ma tutta una rappresentazione, tutta una iconografia durissima dal punto di vista della opinione pubblica, a cui l'America non a malapena sopravvisse, insomma, nella sua prima ondata. Vi ricordate le decapitazioni? Vi ricordate quella America della spedizione in Afghanistan? E che non so con quale umore, con quale effetti, con quale deflagranti reazioni l'America di oggi, stanca e un po' piegata com'è, potrebbe reagire se tutto ciò dovesse riandare in scena. La sensazione, prima parlavamo di Walter Cronkite e della palude vietnamita, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma la sensazione che, nonostante la raffinatezza strategica con cui si è affrontata il rilancio della spedizione in Afghanistan, tutto ciò possa trasformarsi per l'appunto in una palude, magari non di tipo vietnamita, ma che evoca quella a un certo punto impossibilità di andare avanti e indietro, in un certo senso risuona nell'aria, se poi ci si mettono i media contemporanei e la visione di prigionieri che dicono di aver paura, con tutto ciò che di tragico ne potrebbe seguire. La situazione è certamente grave. Torniamo a parlarne con chi ci sta accompagnando con i suoi pareri e con il suo sapere nella indagine attraverso questa guerra, ovvero Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionale, appena rientrato da una missione ad Herat, nel corso durante la quale tra l'altro era lì nei giorni della morte di Alessandro Di Lisio, il soldato italiano caduto in Afghanistan, e sentiamo i suoi pareri riguardo soprattutto a questa possibilità di impantanarsi con sopra l'effetto speciale di terribili visioni di sofferenza. Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'ospitalità. Che ne pensi di questo, di quanto dicevo? Penso che ci si può impantanare esclusivamente dal punto di vista politico. La sensazione che ho riportato dall'Afghanistan è che si stiano facendo delle cose giuste, ma con tantissimi anni di ritardo, ed è proprio il tempo quello che viene a mancare, e spero che se ne abbia ancora, soprattutto per gli afghani, che sono, bene ricordarlo, i primi a soffrire. Perché il tempo? Perché? Spiegaci. Il tempo è perché nel momento in cui per lunghi anni la coalizione internazionale è stata indecisa su che cosa fare, su come supportare il governo di Kabul e su quali sono i provvedimenti da adottare per stabilizzare il paese, ovviamente a un certo punto la gente è esausta della guerra e guarda in maniera generalizzata, non in tutte le aree del paese ovviamente, ma in molte aree del paese guarda in maniera assolutamente negativa i soldati della coalizione, perché caduti i talebani si aspettavano con grande gioia tutti gli afghani, buona parte degli afghani, che cambiassero le cose, che finalmente il paese si avviasse verso un futuro certamente più roseo, e invece la titubanza occidentale, aiuti sì, aiuti no, soldi tanti spesi anche male, hanno fatto sì che nel paese la criticità aumentasse invece che diminuire. Ma non pensi poi che anche l'opinione pubblica americana, in un momento così complesso con la crisi che non dà segno di volersi togliere di torno, potrebbe soffrire assai dalla riproposizione di scenari attraverso i quali si è già transitati e che vengono a tuttora considerati dei veri e propri incubi mediatici, ma anche purtroppo reali? Io non so, un presidente democratico che ormai è con tutti e due i piedi di nuovo dentro una guerra per sua scelta e per propria strategia, come e quanto può difendere, al di là del fattore economico della guerra stessa, a fronte della situazione generale, la messa in circolazione, adesso ripeto, faccio gli scongiuri, ma che ne so, di una scena di decapitazione o quant'altro, ci risiamo in uno scenario anche qui politicamente da incubo, non pensi? Io sono più prudente. Per fare un passaggio sul Vietnam, come tu accennavi, è un'America diversa, è un'America che non ha alle spalle un esercito di leva come era allora, è un'America che in questo momento non vede dei grandi movimenti contrari alla guerra di migliaia e migliaia di persone come era nel Vietnam, è un'America che ha avuto l'11 settembre, che sa perfettamente che se lasciassimo l'Afghanistan al suo destino sarebbe soltanto questione di tempo e poi si potrebbero riprospettare scenari ancora più cupidi di prima. Quindi credo che la percezione all'interno dell'America di quello che è l'importanza dell'Afghanistan più che dell'Iraq sia forte. Ecco, gli ultimi minuti che ti rubo, Andrea, sono relativi a un'agenzia che è stata appena battuta e che dice che nella zona di Kunduz, nel nord dell'Afghanistan, i soldati dell'esercito tedesco hanno aperto il fuoco contro un minivan uccidendo un civile, ferendone almeno altri due. Il governatore Kunduz dice anzi che i morti sarebbero tre e di questi sicuramente un bambino. Secondo la ricostruzione dell'incidente, che sarebbe avvenuto domenica mattina, fornita dal Ministero della Difesa tedesco, l'autista del minivan non avrebbe rispettato il segnale di halt. Ti leggo agli ascoltatori questa notizia per ribadire che qui non siamo in Iraq. Questa non è una guerra americana con una partecipazione britannica. Qui è una guerra che anche dal punto di vista delle responsabilità e appunto della partecipazione ha un formato diverso. Quindi dovremmo tenerne conto, e se sì, in che modo? Innanzitutto c'è un mandato delle Nazioni Unite, c'è la NATO, c'è una coalizione ben diversa, c'è un appoggio internazionale ben diverso. Quello che vorrei, se tu mi permetti, dire certo ai tuoi ascoltatori è che è difficile da Roma o da qualsiasi altra città in Europa, negli Stati Uniti, giudicare la situazione. Cioè, certo, la crisi è palpabile, il terrore delle autobomba che si scagliano contro i convogli è palese perché succede quasi quotidianamente, perlomeno i tentativi, e quindi è difficilissimo discriminare. Vengono utilizzati addirittura i bambini, le donne, per cercare di colpire i soldati della coalizione. Questo ovviamente, lo tengo a sottolineare, non giustifica in alcuna maniera un uso non discriminato della forza. Certo, ci tengo a sottolineare, ma voglio anche dire che la situazione è tanto lontana da quello che magari qua nelle nostre tranquille città ci immaginiamo. Ecco, però tu l'hai vista con i tuoi occhi e questi sono i pensieri che riporti indietro, mi sembra di capire una palpabile grande preoccupazione. Sì, forte, perché ci sono alcune zone dove è palese l'odio della popolazione locale, odio che è soprattutto motivato da ritardi nella ricostruzione. È bene ricordare, una guerra del genere si vince esclusivamente con la politica e con la ricostruzione, non certamente con le armi, che servono per una parte, ma non è una guerra di tipo convenzionale, abbiamo sconfitto il nemico. È una guerra dove, per esempio, in questo momento i nostri paracadutisti della Brigata Folgore stanno facendo un'opera assolutamente straordinaria, mostrandosi in aree dove prima non si era mai visto nessuno, e dando un senso palese della presenza della coalizione, e non solo, affiancando il debolissimo esercito afghano in operazioni fondamentali. Quindi, ecco, dacci ancora un minuto per farci capire cosa significa questo manifestarsi. Come agiscono questi nostri soldati? Allora, è bene chiarire che gli afghani hanno bisogno di vedere lo Stato, che è loro, non il nostro. Quindi i nostri soldati si affiancano a quelli dell'esercito, dell'ANA, dell'esercito nazionale afghano, in operazioni di arrivare nei villaggi e rimanere nei villaggi, certo. Costruire dei piccoli enclavi. A questo punto, piano piano, cosa che avrebbe dovuto essere fatta anni e anni fa, la vita inizia. Per esempio, una delle cose classiche per capire se i talebani o comunque i guerriglieri, gli insurgents come vengono chiamati adesso, sono presenti o meno, è se ci sono negozi aperti. Se c'è se il paese, la località vive, è difficile che lì ci sia una presenza degli insorti. Se invece è tutto chiuso e diventa anche il paese una sorta di campo di battaglia, se la gente scompare, ecco, quella è una zona dove non c'è la microeconomia, dove la gente non vive più, quella è una zona in mano agli insorti. Ecco, i nostri riaprono il volano della vita delle persone, i nostri consentono, ovviamente con l'essenziale lavoro dell'esercito afghano, di ridare la terra alla propria gente, agli afghani. Io ringrazio Andrea Margelletti di questa testimonianza. Vi ricordo che ha appena svolto un viaggio di documentazione in Afghanistan, ad Herat, insomma, proprio nei giorni poi del dramma per la perdita di Alessandro Di Lisio, e torneremo naturalmente a parlare con lui nei prossimi giorni seguendo questa situazione. Andrea Margelletti, presidente del CESI. Morehouse College in Atlanta, Georgia. I followed my father and my grandfather, so it was expected I'd be a Morehouse man. When I left Brooklyn, the come down to land and go to school. I know what. Questa è una voce piuttosto inconfondibile, soprattutto per chi si interessa di cultura afroamericana. È la voce di Spike Lee. E visto che poi ci siamo, non so, ormai ci ha preso la questione degli anniversari, qua ci ha preso letteralmente la mano. Stiamo trovando, naturalmente c'è Woodstock là in fondo, c'è qualsiasi cosa di anniversabile, già pensando solo al 69. Poi, se si va ben oltre, si può arrivare al 1989 e a un film che ha cambiato il cinema americano, che ha avuto delle forti influenze sulla cultura americana, non solo su quella nera, non solo su quella afroamericana, e che anche in Italia, basta pensare alla pubblicità, basta pensare ai videoclip, ha avuto i suoi effetti. Il film era Do the Right Thing. New York City was a very polarized city racially. Hey, Sal, how come getting the brothers on the wall here? You want brothers on the wall? E c'è, eccoli qua, i litiganti di Do the Right Thing, un film nel quale si litiga praticamente instancabilmente nel quartiere di Bedford-Stuyvesant, dove è ambientato e dove artisticamente, astutamente, efficacemente Spike Lee nel trattamento cromatico della pellicola accentuò, no, forzò, rese più pieni, più luminosi, tutti rossi, tutti gialli e tutti gli arancioni, per far sì che quel calore di quella estate dell'89 in un quartiere popolare americano di New York fossero più visibili, no? Arrivava proprio il caldo, arrivava affolate dalla pellicola. Ebbene, ci sono celebrazioni alle quali con un piccolissimo spazietto ci uniamo anche noi di questo film, perché è un film che a suo tempo ha provocato grande dibattito, un dibattito che poi non si è spento, ma che è rimasto vivo e che ha continuato a utilizzare Do the Right Thing, fa la cosa giusta, come il suo terminale, come la principale carta, no, di dimostrazione di un certo immaginario. C'è una dichiarazione di Roger Ebert, uno dei più grandi critici americani, che in un certo senso sintetizza il valore ormai classico di questo film, ed è la seguente. Dice: Spike Lee ha fatto una cosa quasi impossibile, ha fatto un film sulla razza in America che fosse capace di essere empatico verso tutti i suoi partecipanti, verso tutti i suoi protagonisti. Sai che Spike Lee all'epoca di Do the Right Thing aveva soltanto 32 anni, era ancora un giovanissimo cineasta, aveva debuttato con quel film in bianco e nero che solo pochi così cinefil o pochi appassionati avevano visto, che si chiama She's Gotta Have It, e aveva fatto un musical di scarsissima fortuna che si chiamava School Days, che era un film ambientato in un liceo, un film musicale peraltro ambientato in un liceo americano. Poi era arrivata una estate molto violenta negli Stati Uniti, quella dell'86, dove in un altro quartiere periferico di New York che si chiama Our Beach c'erano stati incidenti razziali molto seri, molto gravi, in particolare proprio tra italoamericani e afroamericani. C'erano stati dei picchiaggi, dei pestaggi, e alla fine c'era scappato il morto. Lo stesso Spike Lee a ricordare oggi che quando scriveva rapidamente, in modo frenetico, la sceneggiatura di Do the Right Thing, che è stata buttata giù in poche settimane, New York City in quel momento era una città particolarmente polarizzata, particolarmente divisa dal punto di vista razziale. Adesso Spike Lee è un signore di 52 anni, i suoi film hanno perso un po' di graffio, no? Un po' di intensità, un po' di capacità di impressionare sia il pubblico americano che quello d'oltreoceano, sono diventati anche un po' modaioli, un po' fighetti, anche in alcuni suoi interventi sull'America della strada, il film sulla Grande Marcia per esempio, poi alla fine non riesce ad avere quella schiettezza e quella capacità di essere diretto ed efficace che aveva quando era più giovane. Parla naturalmente della presenza di Obama alla Casa Bianca come uno dei cambiamenti epocali a cui ha assistito lui, attivista della causa nera, ma dice sì, per carità, quando ho fatto fa la cosa giusta, pensare a un presidente nero alla Casa Bianca era pura fantascienza. Ciò non toglie che ancora moltissimo c'è da fare, e spiega ad esempio che se è vero che nello sport americano, dove vince chi fa più punti, i neri sono tanti perché ne fanno efficacemente effettivamente di più, invece quando si tratta di altre cose, ad esempio quando si tratta di quel mondo del cinema del quale continua a essere un protagonista, le cose vanno diversamente, le cose stanno in modo diverso. È ancora il caso di pensare fa la cosa giusta, se è vero che entrando in una major di Hollywood per una riunione con i produttori, l'unico uomo nero che incontra sulla sua strada è il portiere ai cancelli d'ingresso della casa. Va bene, adesso vi lasciamo per il resto della serata, temo, su tutti i grandi media a celebrazioni lunari di ogni ordine e grado, così chi non c'era avrà avuto definitivamente la sensazione di essere stato anche lui presente quel giorno dello sbarco. Ci sono i mondiali di nuoto, e a proposito di sguardo internazionale, sono queste critiche rivolte al pubblico italiano, romano, del Foro Italico. Si fischiano molto gli atleti stranieri, e se vogliamo dirla tutta, perché non la si dice mai tutta, si fischiano in particolare molto gli atleti cinesi. Diciamo le cose come stanno, mi sembra che stiano cambiando, no? Anche come dice Spike Lee, cambiano gli equilibri. Un tempo non si sarebbero fischiati gli atleti cinesi, sarebbero fischiati i russi, gli americani, il mondo cambia. Jefferson 2 continua a raccontarvelo. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano, la mail Jefferson2 radio24.it, su Facebook siamo redazione Jefferson 2 oppure Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, diretta come al solito dopo le 4 qui su Radio 24. State bene. 不是你们想象无所谓真假社会本来就是这样被误会又怎样别相信又怎样玩不起这游戏的人就请靠边站狗狗说却非常灵敏可以闻到很多东西却又色盲黑白分辨不清观众也就跟着相信最重要的是对得起自己不变的道理高手过招戴着面具显得活得动机现役我回家去打坐去学生养性沉默的人最聪明不做无聊的回忆